Capitolo 7. Il racconto di Maria. Sono Maria, figlia di Laima. All'epoca in cui nacqui, sorella Marie, la mia terra baltica era sotto l'occupazione della tua terra polacca. Il mondo degli uomini non può stare senza guerre, violenze e furti, e ciclicamente chi prima era occupato poi diventa occupante. Così anche la casa dei miei genitori, a Vilnius, come fu quella dei tuoi a Varsavia, divenne un centro di resistenza patriottica e di conservazione della cultura nativa. Come te, che fosti attratta dai mondi invisibili dentro l'atomo, anche io sentii di dover indagare la dimensione dell'oltre. In che modo le culture native onoravano coloro che lasciavano il corpo? Con quali credenze e cerimonie? Anche per me si trattava di scoprire mondi invisibili, sebbene seguendo una via diversa dalla tua. Furono proprio i riti di sepoltura l'argomento della mia tesi di dottorato. Sentivo che la nostra civiltà aveva perso qualcosa di molto importante, un sapere, una connessione con la madre che poi scoprì essere il ritorno al grembo nel quale credevano le comunità delle madri dei clan, prima che i guerrieri dell'Est portassero nella nostra terra la cultura della morte. Nella profondità del mio essere sentivo, percepivo una cultura pacifica in armonia con la natura. Sapevo per certo che ci fu un tempo in cui vivemmo così. Gli albori della nostra terra videro il sorgere e il protrarsi per decine di migliaia di anni di quella cultura pacifica che sognavo, incentrata sulla figura femminile. La terra dove nacqui tramanda ancora oggi questa credenza, attraverso le canzoni popolari che fin da ragazzina ho raccolto, viaggiando attraverso le campagne e i villaggi. Possa Madre Zemina tenerti nel suo abbraccio gentile, possa il sorgere della Dea Sunia scaldarti in inverno, e possa Medina, spirito della foresta, farti ombra in estate, possa Laima, signora della buona sorte, portarti ciò che desideri. Fui costretta a fuggire dalla mia amata Lituania a causa dell'occupazione sovietica e, come molti altri, giunsi profuga negli Stati Uniti, dove fui accolta e mi fu permesso di fare ciò che ero nata per fare: scavare per riscoprire i resti della cultura complessa e magnifica della grande madre in Occidente e restituirla al mondo in superficie. Cominciai a scavare in quella che chiamai l'antica Europa, una terra che andava dall'Italia meridionale a tutta l'area balcanica, seguendo il corso del Danubio fino alla sua foce nel Mar Nero. Scavai dal 1967 al 1980, in Jugoslavia, Grecia, Italia, in quelle terre e in quell'arco di tempo, trovai le statuette della Dea che confermavano la mia teoria di una cultura matrifocale protrattasi per migliaia di anni. Ne trovai almeno 500. Avevo buona capacità di sintesi e intuizione, ma soprattutto avevo le memorie che quei siti risvegliavano in me. Le memorie mi consentivano di ordinare e catalogare migliaia di reperti su un vastissimo territorio, quello dell'Europa orientale, e di dare loro una logica e una motivazione. Io sapevo senza ombra di incertezza, poiché avevo vissuto molte vite nei clan delle madri. Ricordavo perfino dove erano stati sepolti gli oggetti e quando si trattò di andare a cercarli in questa vita, fui guidata dall'istinto delle memorie cellulari. Io ricordavo che ben prima dei popoli che a scuola ci insegnavano a considerare i più antichi, ci fu la grande cultura della Dea. Lo ricordavo perché ci avevo vissuto. Una civiltà neolitica, raffinata, organizzata, ricca, guidata dalle donne, dalle anziane, le madri dei clan di cui avevo fatto parte. Fui io a riportare nel mondo l'informazione che quella che veniva superficialmente bollata come preistoria dai libri scolastici era stata in realtà una millenaria cultura pacifica, non ancora dominata dal patriarcato, ugualitaria e incentrata sulla sacra femminità. La prima divinità adorata dall'umanità fu una dea madre autofecondante, che generava e rigenerava senza sosta le sue figlie e i figli nel suo sacro grembo, rappresentato dalle caverne e dai canyon, i canali della nascita nel corpo terrestre, per la legge alchemica dell'analogia. La dea era la natura, era la vita, era la terra, ma anche il cosmo e il cielo stellato e il sole. E il suo potere era nelle pietre e nelle montagne, nel vento e nel fuoco, e soprattutto nei canali e nei bacini dove l'acqua, che è il suo sangue, scorre, trasportando ovunque informazioni e memorie. Le colline sono il suo ventre gravido. Gli alberi, i fiori, gli uccelli, i pesci, i serpenti e tutti gli altri animali sono i suoi figli, messaggeri e aiutanti. Sapevo che nelle comunità neolitiche guidate dalle donne, la terra era considerata un'unità vivente e la dea, con le sue migliaia di statuette che scavai in Europa, era la metafora della terra vivente e del cosmo, con la loro ciclicità riproduttiva. La dea, la madre, era colei che dava le leggi e non poteva essere tradita o imbrogliata. Come metafora della terra vivente, doveva essere rispettata per poter continuare a nutrire i suoi figli. Qualunque abuso nei confronti della terra sarebbe stato considerato un sacrilegio. Gli esseri umani, che vivevano in sintonia con la natura, rispettando il patto che avevano con lei, erano popolazioni benedette, che vivevano nell'abbondanza. Tutte le popolazioni native del pianeta hanno sempre avuto questa regola. La mia gente nelle campagne baciava la terra al mattino quando usciva per andare al lavoro nei campi. Le figurine che rappresentavano la dea non avevano volto, poiché la dea era formata da tutti gli esseri viventi, ma venivano evidenziati gli attributi femminili legati alla riproduzione, i seni, il ventre, la vulva e le natiche. Era una grande madre, datrice di vita che si adorava nei villaggi, nelle comunità e nelle singole abitazioni. Ma c'era anche un'altra immagine. La dea nel suo aspetto di rigeneratrice, rappresentata con il volto di un uccello, avvoltoio, corvo e altri che si cibano di cadaveri. Le anime dei clan potevano contare su nuovi corpi, creati per loro dalle donne ancora fertili, per tornare nel mondo dei viventi, mentre i loro vecchi corpi venivano divorati e rientravano nel ciclo della natura attraverso le feci degli uccelli, come fertilizzante. Le ossa che rimanevano venivano sepolte in grandi fosse, come i norti, affinché servissero da semi per le nuove nascite. Il tutto era connesso in un unico grande ciclo naturale, dove non esisteva nemmeno il concetto di morte. La prova che si trattasse di comunità basate sull'uguaglianza e sulla circolarità stava nel fatto che non trovai mai tombe ricche o privilegiate risalenti a quel periodo, né palazzi, ma trovai solo villaggi di finanche 15.000 persone che vivevano nella più totale uguaglianza. Né negli scavi, né nelle pitture rupestri si trovano tracce o immagini di persone che combattono singolarmente o in gruppo. La civiltà della guerra non era ancora nata e gli uomini vedevano nelle donne il volto della dea e pertanto le onoravano, le rispettavano e custodivano il loro benessere. Una società dove le donne sono felici era considerata sana e prolifica. Tutto questo era chiaro nella mia memoria cellulare e l'istinto mi faceva con facilità ricollegare i simboli che rintracciavo sul vasellame alla ritualità e alle credenze di quelle nostre antenate dell'età della pietra. Tutte le dee, con i loro molti nomi, erano diversi volti dell'unica grande madre. Io ricordavo che 10.000 anni fa la civiltà non era stata affatto primitiva e rozza come volevano farci credere, e usai tutta la mia forza e sapienza per dimostrarlo, sebbene il mondo degli uomini mi abbia all'inizio derisa, come sempre. Alla fine, però, catalogai talmente tanti oggetti e ne fornii significati talmente inconfutabili che la mia visione fu quantomeno presa in considerazione. Le nostre sorelle Jean Marie Howell e Marion Zimmer Bradley l'hanno ottimamente espressa nei loro romanzi delle saghe dei figli della terra e di Avalon, che naturalmente, almeno all'inizio, furono irrisi dalla cultura patriarcale e bollati come fantasy. Jean, sebbene in forma romanzata, suggerì una genesi molto interessante del patriarcato, la presa di coscienza della funzione fecondante del seme maschile. Nell'ultimo suo libro, la sciamana protagonista, Ayla, riceve questa informazione dalla dea e la condivide con la comunità, la quale fino a quel momento aveva creduto che unicamente le donne fossero responsabili della nascita della prole, grazie a un intervento benedicente della dea. Quindi la patrilinea non era conosciuta né ricercata, né le si attribuiva alcun valore. I figli erano delle madri, i padri non esistevano e i compagni delle donne si consideravano custodi e aiutanti nella gestione del focolare. Ma, scriveva Jean, a causa di questa nuova conoscenza, gli uomini cominciarono a pretendere, in una società dove l'unione sessuale era estremamente libera, di sapere con sicurezza quale fosse la loro reale progenie e di occuparsi esclusivamente di quella, in luogo di provvedere indistintamente a tutti i figli della loro compagna e agli orfani del clan, come era stato fatto fino a quel momento. Così Jean fa nascere il patriarcato. Storicamente ho trovato altre cause scavando, ma questa genesi, dal punto di vista psicologico, mi sembra molto intrigante e io la appoggio. I libri di scuola non hanno mai riportato la storia millenaria dei popoli che convissero pacificamente sulla terra prima delle invasioni dei guerrieri che dalla Mongolia e dal Caucaso introdussero la civiltà della violenza nel quinto millennio prima di Joshua. Non sono nemmeno nominate le civiltà neolitiche matriarcali come la Sesclo in Grecia, la Cocuteni in Romania e le altre che ho scoperto scavando nell'Europa orientale e che prima di me gli archeologi si limitavano a catalogare come fossero una lista della lavanderia. Forse perché senza guerre, re e conquiste non corrispondono al modello classico di civiltà creato e divulgato dal patriarcato e pertanto non sono considerate storia. In terra rumena, dove oggi sono conservati i più interessanti reperti delle civiltà della dea che ho chiamato Cucuteni, i miei libri non sono nemmeno esposti nella bacheca all'ingresso, vi sono solo quelli degli archeologi maschi. L'espressione civiltà della dea è sconosciuta persino alle ragazze che fanno da guida nel museo e le statuette della dea vengono definite feticci. La mia visione sosteneva chiaramente che, poiché lo aveva già fatto, l'umanità fosse in grado di vivere senza re, senza capi, senza guerre, e che quella militare non fosse l'unica modalità per risolvere i conflitti. Per questo, nonostante la quantità schiacciante di prove da me fornite, le mie scoperte continuano a non essere divulgate nelle scuole. Sono conosciute solo agli addetti ai lavori e a chi fa ricerca indipendente, poiché compromettono completamente le basi stesse del potere patriarcale che la scuola ha il compito di preservare. Voglio raccontarvi ciò che ricordo di quando vissi nei clan delle madri. Non c'era distinzione tra preghiera e vita quotidiana, tra abitazione e tempio. Ogni donna era sacerdotessa della sua casa. Le donne ancora fertili cuocevano il pane e il vasellame di argilla, metafore del sacro grembo, mentre le anziane guidavano le comunità con la loro saggezza e tessevano come tutte le dee dell'origine. La pezza da loro tessuta era simbolo della nascita del mondo duale attraverso le due fasi del respiro espresse dai due fili che si intersecavano in trama e ordito. La cultura e la natura erano interpenetrate. Non c'era un clero, né testi, né dogmi. La dea era la vita stessa e la vita era immersa in lei. La gente ne faceva parte con le sue azioni quotidiane. Le donne poi, siccome hanno l'utero, erano considerate sacre portatrici del suo messaggio al quale erano costantemente collegate. Col mio lavoro risvegliai la consapevolezza che una civiltà non si riconosce dalla maggior quantità di guerre, conquiste e potere, bensì dal numero di persone che si possono dedicare all'arte e all'artigianato. Quando una civiltà produce raffinati oggetti artistici, significa che non ha fame e può dedicare il tempo a qualcosa di diverso che affannarsi a procacciare il cibo o a razziare i villaggi vicini. Agricoltura, tessitura e ceramica sono state le grandi invenzioni apportate all'umanità dalle donne del Neolitico e collegate alla Grande Madre. Il mistero del seme che entra nella terra e fruttifica è il grande segreto della nascita legato alla Dea. Fummo noi, le donne dei clan neolitici, ad osservare il ciclo del seme e ad avere l'idea di seminare gli orti. Come archeologa potei dimostrare coi miei ritrovamenti che erano le mie sorelle antiche a supervisionare la vita nelle case e nelle comunità, come madri che sfamano tutti i loro figli, ciascuna secondo le sue necessità. In ogni casa vi era un forno di terracotta, un telaio e un altare alla dea, e questo rendeva ogni casa un piccolo santuario privato. Ma gli uomini difficilmente possano accettare il potere della madre, poiché temono di perdere il potere che un mondo governato da un dio garantisce loro. Proprio da un uomo che inizialmente considerai un figlio, fui tradita. Colin Renfrew prima scavò con me, poi mi si oppose e irrise le mie teorie, sostenendo che io vedevo la dea ovunque. Certo che la vedevo, poiché ella è ovunque. E la natura e la vita che ci circonda, fino nel movimento degli atomi e nei loro nuclei, come hai detto giustamente, sorella Marie. Povero Colin, come potevi capire? Per me era chiaro che la dea incarna i quattro aspetti del ciclo vitale: la nascita, la crescita, la morte e la rigenerazione. O, se uniamo gli ultimi due, come sento giusto, troviamo la fanciulla, la madre e l'anziana, il triplice volto della dea. Le statuette che trovai, rappresentanti una donna grassa e gravida, non erano simboli di fertilità, come crede il sistema patriarcale, schiavo della necessità di assicurare la discendenza paterna, bensì erano simboli di rigenerazione. Per le donne dei clan matrifocali, generare era qualcosa di naturale e gioioso. Non si era ancora diffuso il clima di angoscia, colpa, paura e superstizione che ha insozzato la funzione generatrice del grembo nei millenni successivi. Chi fosse il padre, ammesso che ve ne fossero, non aveva alcuna importanza. Vi era una madre per generare e rigenerare corpi alle anime del clan. E credo fermamente che all'epoca il concepimento avvenisse per via partenogenetica, poiché le donne ancora non erano state addestrate a rinnegare il loro piacere. Delle statuette nessuno prima di me aveva parlato, perché in verità nessuno sapeva cosa dire, e per lo stesso motivo nessuno recensiva i miei articoli. Ho dissotterrato e ristrutturato una visione del passato completamente rivoluzionaria, che ha abolito lo stereotipo della creatura preistorica sudicia, barbara, selvaggia e vestita di pelli, con la bocca sporca di sangue animale rappreso ai lati. E ne ho delineata, invece, una raffinata, pacifica e spiritualmente evoluta, che disturba il sistema patriarcale con la sua storia lineare, le sue banche, i suoi eserciti, le sue multinazionali, i suoi imbrogli. Fonte di ispirazione e via per il risveglio di memorie sono state per me le anziane lituane che vendevano erbe e verdure al mercato. Ho ritrovato negli scavi le stesse ceramiche decorate che fin da piccola osservavo sugli scaffali della mia casa a Vilnius, poiché la mia terra aveva segretamente conservato la tradizione della dea e per questo io avevo deciso di incarnarmi lì. Scoprii i simboli della dea negli oggetti di uso quotidiano più comuni tra la mia gente, sulle decorazioni dei mobili e dell'abbigliamento. Ho sentito la voce della dea nelle canzoni popolari. I miei scritti, però, furono considerati sovversivi dagli occupanti polacchi e pertanto proibiti. Dovetti fuggire. Ma dopo 20 anni di esilio potei tornare nella mia amata Vilnius e ispirare la resistenza lituana. Continuai a tornare nella mia terra. La amavo e avevo bisogno della sua energia per trovare la forza di proseguire il mio faticoso cammino. Quando cominciai a scavare, trovai nei corredi funerari del Neolitico oggetti che in Lituania erano ancora di uso comune e compresi che da lì la dea non se ne sarebbe mai andata. La mia terra era una fonte vivente e ininterrotta del sapere di cui cercavo le prove scavando. Perciò, Per avere informazioni sulle comunità matrifocali neolitiche, ricominciai a studiare il folklore lituano, i suoi canti, racconti e miti. Questa meravigliosa ed evoluta società neolitica fu irrimediabilmente minata, checché ne dica Colin, dalle invasioni di popoli guerrieri provenienti da est nel terzo millennio prima di Joshua. Essi giunsero armati e a cavallo dal Caucaso e dagli alti piani della Mongolia. Li ho chiamati Kurgan. Con loro giunse la cultura della morte, della violenza, della razzia e dello stupro, della servitù e della schiavitù. Loro usavano il fuoco come arma, mentre noi solo come preghiera. In tre successive ondate, le pacifiche comunità native dell'antica Europa furono assoggettate. Esse non conoscevano la violenza o la lotta e non furono in grado di difendersi, non avevano armi né fortificazioni. Le egualitarie fosse comuni, che contenevano le ossa amorevolmente sepolte come semi per le nuove nascite, furono sostituite dalle sfarzose sepolture di grandi re e guerrieri, ai quali venivano sacrificate mogli, figli, cani, cavalli, affinché non fossero soli sottoterra. Un abominio. Nacquero le gerarchie. Coloro che davano la morte divennero più onorati di coloro che producevano cibo per sostenere la vita, e le donne finirono in fondo alla fila. Il profondo senso rigenerante della medicina dell'Ovest, che apparteneva alla dea anziana nel suo aspetto di avvoltoio, venne completamente corrotto nel momento in cui la dea fu trasformata in un dio che nulla sa della rigenerazione nel grembo e pertanto si trasforma in un dio di morte e dei morti. I guerrieri, incoraggiati da un dio del cielo, maschio, violento e sessista, staccato dalla natura, introdussero una nuova religione basata sulla violenza e sulla vendetta, e la dea fu umiliata e nascosta ai più. Poté sopravvivere solo segretamente e io dedicai quella mia vita a rendere credibile con i miei ritrovamenti il semplice ricordo di come ero vissuta qualche millennio prima. La lingua dei Kurgan sostituì quella nativa, il dominio sostituì la cooperazione, la proprietà sostituì la libera condivisione. E sull'Europa calò il buio che ancora oggi perdura. Il loro dio maschio non era la natura che crea se stessa, bensì un creatore della natura, dominatore e staccato da lei. Ciò che oggi insegnano nelle scuole comincia da lì, dalle invasioni. Ciò che fu prima, l'Eden, è considerato mito, ma noi sappiamo che in vero ci fu un tempo assai lungo in cui l'umanità visse in pace. Il mio approccio allo studio divenne una nuova disciplina, composta dall'unione di archeologia, mitologia, linguistica, folklore, etnologia e intuizione. Questa nuova disciplina fu chiamata archeomitologia nell'università dove insegnai. Usai altre discipline per poter confermare in modo inconfutabile ciò di cui il mio cuore non dubitava affatto, per rendere credibili i miei ritrovamenti nel mondo degli uomini che esigono prove, prove, ancora prove e non si lasciano guidare dalla percezione. Scrissi centinaia di articoli e 20 libri e feci dell'archeologia una scienza viva e non solo una serie di numeri che archiviano pezzi di oggetti. Insistevo che per comprendere le nostre antenate bisognava decodificare i simboli spirituali contenuti nella loro arte, nel loro artigianato. Esse, in vero, non avevano una scrittura, ma avevano simboli sacri, che rappresentavano le funzioni della dea, della nascita e rinascita, la spirale, la M, le onde, gli animali anfibi e tanti altri che vi racconto tra poco. I miei libri provocarono opposizione e scissione nell'Accademia, perché fino a quel momento si era considerata l'archeologia come una scienza esatta, fredda, laica e impersonale. Non veniva data alcuna importanza a reperti cerimoniali che significavano invece una spiritualità formata e consapevole, seppure pagana. La mitologia era disprezzata come fiaba o leggenda e la ricerca religiosa era roba per preti. Gli archeologi non si abbassavano a considerare mitologia e spiritualità come parte della ricerca. Io invece avevo cominciato da ragazza a girare le campagne lituane per cercare e collezionare canti folk della mia terra, insieme a Jurgis Gimbutas, colui che poi divenne mio marito. Avevo una conoscenza trentennale del folklore baltico che parlava della dea e della natura come sua incarnazione. Tra i 16 e i 17 anni ne ho raccolti quasi 5.000 che, preservati dalla tradizione lituana, testimoniano la relazione tra natura, vita quotidiana e spiritualità. Le canzoni folk risvegliarono in me la memoria del canto delle origini, la voce della dea, il tempo in cui si faceva tutto cantando e danzando e la terra intera era attraversata dal canto della vita. Crebbi in una famiglia di donne. Vivevamo tutte insieme in una grande casa piena d'amore in Vilnius. Come te con Bronia, sorella Marie, vissi in simbiosi con mia cugina Maila. Le nostre madri erano sorelle. Tutte le donne della famiglia poterono studiare secondo le loro inclinazioni. Mia madre era oculista, la prima donna filosofie doctor in Lituania. Lei mi insegnò a vedere. Insieme a mio padre, medico, furono attivisti per la libertà e fondarono il primo ospedale lituano per i poveri. Da bambina marinavo la scuola per girare le vie della città che tanto amavo e per andare a spiare le statue nelle chiese. Ero in cerca di qualcosa, ricordi, impulsi. Quando mio padre lasciò il corpo, avevo 15 anni. Grazie a lui mi si aprirono le porte per indagare quel transito rappresentato dalla morte-rigenerazione che ricordavo dalle vite vissute nei clan. Allora divenni una brava studentessa, poiché finalmente avevo trovato il mio campo di interesse. Poi i russi invasero la mia terra. Molti della mia famiglia furono deportati in Siberia e non li vedemmo mai più. Eravamo dissidenti. Poi vennero i tedeschi e completarono l'opera. Chi non era stato deportato prima lo fu dopo. Poi tornarono i sovietici. Scappai con la tesi sotto un braccio e la mia prima figlia sotto l'altro. Conosci bene la situazione, sorella Sabina. Al confine ci dirigemmo verso l'Austria e poi la Baviera e alla fine della guerra ricominciai a studiare a Tubinga, la prima università tedesca a riaprire i battenti. Vi ottenni il dottorato e pubblicai il mio primo libro sui riti di sepoltura. E nacque la mia seconda figlia. Come voi sorelle Sabina e Marie, ho avuto solo figlie femmine e sono sicura che se Gabriela, Brigitte e Hildegard avessero partorito, sarebbero state femmine anche loro. La nostra conoscenza si tramanda per via matrilineare. Il giorno della laurea non segnò la fine dei miei studi. Anzi, fu un nuovo inizio, poiché ora potevo approfondire, secondo il mio giudizio, ciò che prima dovevo apprendere dai libri di altri per avere il mio diploma. Così ricominciai da capo, dal folklore e dall'arte popolare. E venne il giorno in cui finalmente potemmo attraversare l'oceano, verso il nuovo mondo. Ah, mio marito ricevette un incarico a Boston ed io fui invitata all'università di Harvard come lettrice. Ma poiché ero una donna non venivo pagata. Però mi diedero un ufficio e mi offersero di scrivere un'opera sulla preistoria dell'Europa orientale. Ero l'unica in tutta l'America a conoscerne miti, linguaggi e tradizioni e ad avere in più una solida formazione archeologica. Naturalmente ebbi difficoltà, come voi sorelle, a integrare la mia missione in quella vita con il ruolo di madre, però c'erano molte giovani studentesse che si offrivano di aiutarmi con le mie 3 figlie. Con Jurgis fondammo il Circolo Culturale Lituano che mi permetteva di avere nel mio salotto intellettuali, scrittori e filosofi dell'epoca. Harvard pubblicò il mio libro col titolo Preistoria dell'Europa orientale, che mi diede una certa fama tra gli addetti ai lavori, sebbene, essendo donna, lì non avessi alcun futuro come docente. Potevo restare solo come lettrice, senza paga. Nonostante fossi un membro dello staff, potevo frequentare i club solo accompagnata da un uomo e in alcune biblioteche non potevo entrare, poiché erano proibite alle donne. Insomma, decisi di andarmene, tanto più che con mio marito non c'era più accordo. mi fu offerta una cattedra alla UCLA, all'Università della California. Così divorziai e mi trasferii in California, dove fui subito felice. Sentivo di avere un futuro, finalmente. Mi rimisi in salute. Pubblicai altri due libri e dozzine di articoli e arrivarono i primi finanziamenti. Oh, non certo per la mia teoria sulla dea, no. Solo per la parte accademica relativa all'età del bronzo. Però tornai in Europa e cominciai a scavare. Quando scavavo, osservavo ogni dettaglio e poi sintetizzavo le conoscenze con le intuizioni. Fu allora che trovammo tantissime statuette nei resti delle abitazioni, vicino ai forni e su piattaforme. Dalle loro ubicazioni ricavai la memoria che si trattava di immagini della dea nel suo aspetto di madre, poiché il pane estratto dal forno era una rappresentazione simbolica del parto. Osservando le statuette per ore e sovrapponendo le decorazioni, cominciai a notare le somiglianze. E da lontano tornò a me il ricordo di vite precedenti, vissute lì, tra quelle mura, impastando quel pane, tessendo quelle pezze, cantando e danzando per il parto di quelle donne, per il grano e l'erba, per le sementi e l'acqua. Misi insieme i pezzi e riportai nel mondo i significati simbolici di quei disegni. Quelle immagini erano una scrittura geroglifica, un modo di comunicare, un linguaggio visuale. Il triangolo pubico fu il primo che riconobbi, poi raddoppiato nella forza dalla clessidra, dall'abris, dallo chevron. Il luogo della nascita era il fulcro della spiritualità delle antenate, attorno al quale ruotava la ritualità neolitica. Lo zigzag indicava l'acqua e il fulmine, lo chevron indicava anche le mammelle, l'alimento, il sostegno alla vita. Il labris era anche la farfalla, cioè la trasformazione. Le spirali e i serpenti indicavano rigenerazione. Ritrovai sempre gli stessi simboli in infinite combinazioni. Grazie, mamma, ora vedevo. Ripresi in mano reperti che avevo scavato anni prima in Europa e che nessuno aveva più guardato. Cominciai a osservarli attentamente e ad affiancarli per notare le somiglianze, anche se provenivano da luoghi lontani tra loro. E le somiglianze c'erano, e come? Era il linguaggio sacro comune di un'area vasta quanto tutta l'Europa orientale. Annotai tutto e ne venne un altro libro. Il mio lavoro più importante e controverso, perché non fu trattato di archeologia, ma un libro di divulgazione, questa volta letto non solo dai tecnici. Lo chiamai Il linguaggio della dea. Fu confutato, naturalmente, negli ambienti accademici, poiché avevo usato quello spaventoso rivoluzionario metodo interdisciplinare, che poi divenne invece una disciplina, il quale spazzava via fino alle fondamenta ogni precedente certezza storica e antropologica sull'umanità, data per assodata fino a quel momento. Ma io ero sicura di aver ritrovato la dea che cercavo. Mi sentivo in comunione con il nucleo originario, con l'essenza stessa della vita. E traevo da questa certezza la mia autorità. Loro avevano semplicemente appreso delle nozioni. Io invece vedevo, sapevo, comprendevo in modo autonomo, endogeno, olistico. Io ricordavo. Ispirai movimenti sociologici, ecologici, spirituali, femministi, artistici. Coloro che mi si opponevano erano i difensori del dogma patriarcale, che aveva lottato contro le sorelle suffragette, poi contro le femministe. Io stavo dicendo che Dio è femmina. Scrissi fino a 10 giorni prima di lasciare il corpo. Il mio ultimo libro è stato formato con gli appunti che ho lasciato. Quando me ne andai, come te, sorella Gabriela, chiesi che i miei resti fossero riportati nella mia terra e in essa sepolti come semi dei clan delle madri. Nella mia Lituania, dove la dea è sopravvissuta. Così tu, sorella Brigid, portasti la dea nel culto di Joshua e io, simmetricamente, l'ho restituita secoli dopo al culto pagano cui appartiene. E il cerchio si chiude e tutto ricomincia in un nuovo giro della spirale. Mentre me ne andavo da questo piano di esistenza, ricordavo gli scavi, e giovani discepole e discepoli che sotto i miei occhi estraevano oggetti dalla terra. Io scavavo poco, lo lasciavo fare a loro mentre supervisionavo. Io osservavo, non mi muovevo dal perimetro degli scavi, non mangiavo, bevevo molto, riposavo poco. Vedevo per prima tutto ciò che usciva dalla terra e ogni volta era come assistere a un parto, un miracolo che mi lasciava senza parole, quasi in uno stato di estasi e di commozione profonda, mistica. Riaccogliere nel mondo dal ventre della madre oggetti che vi avevano vissuto millenni prima, oh, che grande privilegio, che onore la dea mi accordava. Così io, Maria, figlia di Laima, colei che ha riportato la dea nel mondo, in questo sacro cerchio, ho parlato. Tacque e bevve avide sorsate di infuso dalla ciotola che era ritornata a lei dopo aver terminato il giro. Era emozionata e lacrime di gratitudine le scendevano lungo le guance. Cara sorella, quanta forza, coraggio e determinazione per riportare alla luce la memoria della nostra grande madre. Le sorelle si alzarono e camminarono intorno al sacro fuoco in silenzio per un lungo momento. Poi una di loro intonò un canto senza parole, antico e selvaggio, a cui presto tutte si unirono finché non rimase più voce. Incoraggiate dallo spirito della grande madre che si percepiva in mezzo a loro, si alzarono contemporaneamente due donne così simili da non lasciare dubbio sul fatto che fossero madre e figlia, Mary madre e Mary figlia, Mary Wollstonecraft e Mary Shelley, omonime tra loro e con Maria e Marie, che erano sedute vicine, si presero per mano. E con visibile commozione offrirono al cerchio la loro storia.